sempre, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dal signor Carruba, dal signor Marisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita mai in town, non chiama? Io mi chiedo come mai solo. Un napoletano intervenuto ieri alla Zanzara, caro Parenzo, Angelo, residente a Lucca, almeno così. Molto bene. Almeno così ha detto. Angelo, un napoletano. Sentite, è successo un casino pazzesco, eh? Angelo da Lucca. Senti. Io penso che la migliore cosa è mettere i napoletani dentro ai forni crematori. No, vabbè, dai, su, eccolo, Angelo, su. Ma che vuol dire? Qua, ecco l'idiota. Ma dai, ma non c'entra niente questo. 2027, uno può criticare allora, quello che vuole, ma i napoletani arrivato, dentro i forni crematori. È arrivato dai, l'idiota, Angelo. È arrivato. Ma tu sei anche napoletano, vergognati. No, io mi vergogno di essere napoletano, forse non ci siamo capiti. Ma si deve vergognare per quello che ha detto. Mi vergogno di essere napoletano. Lei, ma perché deve ti vergogni di essere napoletano? Per le immondizia che ha detto. Perché non ci tengo a essere proprio napoletano. Ma ho capito, ma lei è napoletano, sta rinnegando se stesso e vabbè, questo ci sta cazzi suoi. Ma in più lei sta dicendo un'altra cosa, che bisognerebbe mettere tutti i napoletani in un forno crematorio, cioè è una cosa incredibile. Allora, o forno crematorio o i termovalizzatori. Angelo, che significa? Che bisognerebbe cancellare Napoli? Cancellare? Sì, al più presto possibile. Ma come? In che modo? Tabula rasa, il Vesuvio? In che modo? Non ho capito, ma è una follia, Angelo, una follia. Vabbè, siamo in Italia, posso dire la mia? Sì, ma... C'è qualche legge che me lo proibisce di dirlo? E lei sta copiando quel tizio là di qualche settimana fa che ha parlato così dei Rom, caro Angelo, ma nessuno ma la guarda. Sono peggio dei Rom. Cioè i napoletani peggio dei Rom. Vabbè, peggio dei Rom. Peggio. Delirio, dai, delirio. Ma scusi, ma adesso lei sta parlando delirio, sul dai, serio? Delirio. Cioè è veramente convinto di questa Rom? No, io sono convinto di quello che dico, per l'amor del cielo. Ma non è io che è una razza. Io giro l'Italia, faccio il trasportatore. Sì. Dove passano i napoletani c'è la merda per terra. Autotrasportatori da tutta Italia, autotrasportatori napoletani, chiamateci. Cos'è? Sei agghiacciato, Parenzo? No, cosa è sei? Che risento la mia voce. Agghiacciato, che sei? Agghiacciato, ma risento la mia voce quando parlo. E allora? Niente, allora mi dà fastidio sentire. Ah, ti dà fastidio sentire la tua voce? Ma i comunisti non si arrendono. La mia eco. I comunisti non si arrendono. E c'è uno come Ferrero, che dice che hanno perso gli Stati Uniti. Cioè, Cuba cade sostanzialmente. Arriveranno McDonald's, arriverà di tutto. Arriverà i bordelli veri, la prostituzione vera e propria. O forse la elimineranno, perché magari arriverà l'America puritana a Cuba. Chissà, non credo, Una volta che si è aperto alla prostituzione non si può tornare indietro, Però Ferrero dice che hanno perso gli Stati Uniti. Ma che hanno perso gli Stati Uniti? Cuba si trasformerà di nuovo in un bordello a cielo aperto come era prima, e anche adesso col comunismo è un bordello a cielo aperto. Però ti ricordi, prima della dittatura era considerato un bordello a cielo aperto, e così ritornerà ai massimi livelli, al cubo. Arrendetevi comunisti, arrendetevi. Tu sei contento per arrendetevi. Il bordello? No, io sono contento per il fatto che arriva all'America Cuba, perché adesso tra 10 anni, tra 15 anni arriveranno gli Stati Uniti, ma diventerà un'isola come le altre. Come 10 anni prima. Sì, ma adesso Guantanamo, un grande albergo internazionale. Faranno un po' di ammuina, dai. Immagino già un albergo c'è io. Quindi è la storia di una sconfitta, la sconfitta del tentativo degli Stati Uniti di dettare legge in America Latina, che ha perso. E quindi oggi è il giorno in cui si festeggia. Si festeggia, si festeggia. Ma che devi festeggiare, Ferrero? Vabbè, lasciamo perdere i comunisti e andiamo alla signora Boldrini. La signora Boldrini, signora Boldrini. Mamma mia, cioè senza che nessuno chiedesse qualcosa, lei ha detto, sì, beh, io non c'è nessuna autocandidatura. Ma chi te l'ha chiesto? Nessuno gliel'ha chiesto, sarebbe un orrore. Anzi, ti dirò di più, se dovessi scegliere tra la Boldrini e Borghezio alla presidenza della Repubblica, beh, amico mio, sceglierei senza ombra di dubbio. No, non dirlo, ti ma prego. Ma senza ombra di dubbio, ci fosse una scelta secca, Boldrini, Borghezio. Non dirlo. Dove metto la X, non secondo? Non dirlo, ti prego, non dirlo. Dove metto non la X? Non voglio sapere. Su Marione, no, sì, ma sì, non è possibile, sì, l'ho messa, ma non è vero. L'ho messa. Ma perché deve esserci questa alternativa? Per mettiamo forza che ci sia questa alternativa, Marione Borghezio contro la Boldrini. No, ma non è così. Non scelgo Marione, tu chi scegli tra i due? Chi scegli tra i due? Me lo chiedi? No, ma ti piace, chiedo, un mondo, certo. Ma me lo chiedi? Mi piace. Ma pensa, me lo chiedi? Marione Borghezio alla presidenza della Repubblica. Ti piace un mondo così? Ma adoro. Ti piace un mondo così? Adoro. Ti prego. No, ti prego, niente. Boldrini, ma perché uno si autocandida? Dice non c'è l'autocandidatura. Ma chi te l'ha chiesto l'autocandidatura? Perché? Si possono avere presidenti, non so, in Brasile, in Argentina, in Cile, magari presto anche negli Stati Uniti. Abbiamo una cancelliera in Germania? No, in Italia no, avrei dovuto dire no. Così non c'erano polemiche e non c'erano presunte autocandidature. Ma per favore. Ma per favore lo diciamo noi, ma per favore lo diciamo noi. Allora, il signor Grillo, caro Parenzo, il signor Grillo che ha detto una cosa molto forte oggi. Cioè, le dimissioni di Napolitano oggi sono state ufficializzate, ma sentiamo prima il Presidente della Repubblica, va così, en passant. L'hanno fatto sentire tutti, sì, no, non lo sentiamo perché l'hanno fatto sentire tutti. Comunque oggi Napolitano cosa ha detto? Che è imminente la fine del mandato. Poi ste cose tutte felpate, è imminente la fine del... Ma parla chiaro! È imminente la fine del... Come se fosse la fine, sì, del mondo! Si sa è imminente quando sarà. No, la fine del mandato, e dimmi, dimetto, sta preparando, punto. Dice il 31 ma tutte di dicembre, queste cose felpate, tutte di... ma è anche il bello, ma, però, della politica, ma no, è vero, no, ma solo in Italia, no, sì, ci sono queste queste frasi mezze dette, mezze mandato, sì, ma appunto, ma un po' di un bello, un po' di bon ton, no, ma perché un po' tu di non eleganza. Sei una persona chiara, bisogna no, dire le cose chiare. È chiaro che si dimetterà, no, vabbè, così comunque siamo d'accordo, amico mio. Solo che lo dice con eleganza. Grillo ha detto che si deve costituire. Questo ha detto il signor Beppe. Sì, Grillo. Sì, Napolitano non si dovrebbe dimettere, dovrebbe costituirsi. Sì, però ci saranno, insomma, le elezioni per il Presidente della Repubblica. Ma il Presidente, bisogna che ci sia un Presidente che non agevoli e non firmi qualsiasi cosa, mi firmo e non mi spezzo. Insomma, ha firmato qualsiasi cosa, dalla legge Fornero allo scudo fiscale. Cioè, secondo Grillo, Napolitano non deve dimettersi, ma deve andare dai carabinieri. Dice, eccomi no, qui. Guarda che abbraccio aperto, eccomi qui. Voglio dirti una cosa: hanno condannato il signor Storace, sì, settimane fa, mesi fa, un mese fa, ne abbiamo anche parlato, sì, allora? No? Per vilipendio, sì, sì, al capo, sì, dello, allora, Stato. Allora? Reato che dici, io reputo superato. Peggio ancora. Amici magistrati all'ascolto. Sì. Amici, dopo esservi amici occupati tuoi, di Milano, sì. Sì. Quando sabato ci sarà il raduno nero a Milano, dopo esservi contestualmente, occupatevi, dico seriamente, delle parole di Grillo, perché trattare il Presidente della Repubblica come un criminale, perché usare il termine costituirsi vuol dire, cioè, paragonarlo, tu stai dicendo a che... Rina, no, non io, basta, no, però. Io tu ogni giorno Grillo ha paragonato della magistratura, il capo, ma no, ma in questo caso Grillo ha paragonato il capo dello Stato a un criminale, cioè a un Rina qualunque, questo ha detto, perché usare le parole costituirsi, questo vuol dire, vabbè, al capo dello Stato. Ma abbiamo con mandate noi i carabinieri, ma abbiamo mandate con noi i carabinieri, vabbè, mandiamo i carabinieri, adesso li manderemo. Abbiamo con noi un uomo, sì, che rappresenta un po' la pancia grillina, anche se ovviamente non è che sia, non è che sia un colonnello di Grillo, è uno che fa il giornalista sul web, soprattutto è con noi il mitologico Salvo Mandarà. Buonasera. Ciao Giuseppe, ti prego di non offendere, io non sono un giornalista, ecco. Vabbè, quindi dai, adesso già cominciamo con gli attacchi, così come incipit. Mandarà. Ma come? Giornalista è David Parenzo e Beppe Cruciani e tanti altri. Io non sono un giornalista. Cioè, ecco. Sei un'offesa, Salvo? No, per, diciamo che per me, allora intanto non lo sono, io proprio non ho fatto l'esame, non sono iscritto, questo, a me è un'offesa dall'esame, si capisce. Però visto che tipi di giornalisti esclusi per esempio ci sono in Italia, dico veramente per me è un'offesa, ecco. È un'offesa, ovviamente benissimo. Non parlo dei presenti, non parlo dei presenti. Vabbè, ma parla pure dei presenti, chi se ne frega. Senti, Salvo, io voglio capire una cosa, ma lo tratta come una persona normale, capito? Ci sono una serie di reati, tu hai denunciato Napolitano per una serie di reati, ce li vuoi elencare per cortesia? I reati? Sì, Parenzo, sì. Certo, te l'elenco, ma questa cosa l'abbiamo detta già 4 o 5 volte. Vabbè, ma oggi la ridiciamo perché Grillo ha detto questa roba qua. La ridiciamo. Allora, però ci tengo a dire una cosa. Sì. Perché nella denuncia che io ho presentato, che è la denuncia che ha fatto nel 2012 Paola Musu, un avvocato, Paola Musu, ma che ci frega? Sono migliaia di persone che hanno, come che ci frega? È un avvocato, scusami. Vabbè, ma ho capito, ma adesso l'hai presentata anche tu. Dimmi un attimo l'elenco dei reati, non fare la sola riassunto. Ci tengo a dire che la denuncia non è contro Napolitano tout court, ma è contro tutte le massime cariche dello Stato, quindi certo, comprendo tutti i presidenti del Consiglio, tutti. Dal patto di Maastricht oggi, quindi Prodi. Berlusconi, Letta, Renzi, tutti. E poi Monti, ovviamente Monti certo, prima tutti. Di tutto. Eccetera. Vabbè, ma dimmi i reati di cui sarebbe colpevole Napolitano secondo te? No, io non sono un magistrato, io ho fatto una denuncia. Vabbè, ma ho capito. Io ipotizzo. Vabbè, ipotizza. Allora, articolo 241 del codice penale, attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. Poi? 270, associazioni sovversive. Sì, 283, attentato contro la Costituzione dello Stato. Sì. 287. Ma cosa dice? Poi? Dico, usurpazione di potere politico. Sì. 289, attentato contro gli organi costituzionali. Sì. 294, attentato contro i diritti politici del cittadino. Basta, 304, cospirazione politica mediante accordo. Ma 305, cospirazione politica mediante associazione. Capito, te ne dico un altro io. 54, non dire che fate. Articolo 54, non vanno dette troppe cazzate. Giornalista Parenzo, stia zitto lei. Basta! 54, bis, basta! Ma non è possibile dare serietà. Ma cosa va bene? Lo chiami? Puoi dirmi, scusami. Ci sono migliaia di persone che hanno fatto questa denuncia, non solo io, caro David Parenzo. Quante sono? Sono migliaia, erano 300 migliaia subito nel 2012 e poi ce ne sono diverse migliaia. Ma secondo te, scusa, non ce la fai più. Ascoltatori, capito? Lo tratta come Churchill. Dice, ma secondo te, perché va incriminato come Churchill? Fa domande come dovrebbero essere fatte agli statisti, no? Scusi, caro Galli della Loggia, mi può spiegare perché? E manderà! Non è Galli della Loggia. Basta, scusa, Salvo. Ma chi è Galli della Loggia? Scusami, chi cazzo è Galli della Loggia? Caro Salvo, potresti spiegarmi il tuo punto di vista? Ma come mi permetti? Ma chi cazzo è Galli della Loggia? Me lo spieghi? Ma chi è Galli della Loggia? C'ha ragione da questo punto di vista. Scusami, Salvo, però secondo te, uscito dal Quirinale, dovrebbe andare direttamente dai carabinieri? O dovrebbero essere i carabinieri andare dal Quirinale? Però dillo chiaramente, non avere paura. Ascolta, io non ho paura. Ti dico una cosa, intanto Napolitano oggi ricopre la carica di capo dello Stato. E allora? Ci troviamo in uno Stato in cui vige un reato assurdo che esiste in pochi stati incivili come l'Italia, cioè quello del vilipendio. Okay? Quindi io ho denunciato dei fatti ed è il magistrato che deve decidere se questi fatti sono veramente stati commessi oppure no. Ma secondo te va arrestato o no? No, prima bisogna fare un processo eventualmente e poi se dal processo risultasse che che è colpevole, a quel punto deciderà il magistrato. Io non sono un magistrato, quindi è chiaro che quella di Grillo comunque, è una secondo battuta. Te è un criminale, è secondo te è un criminale. No, secondo me ci sono alcune cose che fanno pensare che lui, ma anche tutti i ministri e i presidenti del Consiglio, probabilmente hanno commesso dei reati, ma io chiedo alla magistratura che ha il dovere di indagare. Ma non ci sarà mai nessuna indagine, nessuna inchiesta, lo sai benissimo. No, non è vero. Ma come non è vero? Ma bisognerebbe a livello internazionale. Ma bisognerebbe mandare. Ma che internazionale? Ma qui bisognerebbe mandare in tribunale. Bisogna mandare un'ambulanza ben fornita, non un tribunale. Dov'è la sirena? Metti la sirena. Ma non è una battuta, un'ambulanza con dentro 40 medici in camice bianco specializzatissimi. Non un'ambulanza semplice. Un'ambulanza attrezzata. Pensatissima ci vuole. Fermo. Ah. Lorenzo, c'è il professor Abbate. Senti il professor Abbate cosa ci regala. Il marchese, dici. Il marchese, scusa, il marchese. Sì, non Lirio Abbate. No, no, no, il marchese Fulvio Abbate. Il marchese Abbate è sempre il numero uno. Il marchese Fulvio Abbate sul Movimento 5 Stelle, senti. Ma accade di andare in televisione e di commentare la subcultura del Movimento 5 Stelle, le scie chimiche, il microchip sottopelle, i rettiliani e il cazzo che ti frega? Ricevo reazioni risentite, insulti anche, accuse di disinformazione. Io sono un artista, uno scrittore, non devo fare informazione. Io devo constatare la miseria di questa assenza di presunta fantasia. I rettiliani, le scie chimiche e il cazzo che ti frega su tutte e cinque le stelle. Il marchese Fulvio Abbate. No, grandissimo. Forbito. In nome dell'ironia, modello base, il marchese Fulvio Abbate si sente di dover pisciare sui rettiliani, sulle scie chimiche, sul microchip sottopelle, sul cazzo che ti frega. Questa vostra subcultura, andatevela a discutere al laghetto di Villa Borghese, dove un tempo andava Totò con altri disperati col battellino radiocomandato. Il marchese Mandrà, è pure per te il marchese, eh? Ma perché? Io prima di tutto manco lo conosco e poi a me non mi ha detto niente. Vabbè, non ha fatto il mio nome. Ma tu sei uno che pensa che le scie chimiche siano un problema, diciamo la verità, dai, ma, su. Senti Giuseppe, se vuoi affrontiamo anche l'argomento. No, per carità. Dell'errorazione. No, però napoletano, perché un io voglio fare. Capire perché un criminale secondo te? Ma spiegamelo. Allora, io non ho mai detto che napoletano è un criminale. No, ma l'hai detto, come okay. Non l'hai detto mille volte, adesso c'hai paura no, di dirlo. No, vabbè. Io non ho paura di niente. Ma tu che sei quello che seguiva Grillo con la telecamera, che sei la pancia del movimento, spiegami una cosa, ma la questione, cioè perché per te rappresenta il male? Ma allora, io ti dico una cosa, al di là di tutti i reati, per cui sì, io vabbè, e altre migliaia di italiani abbiamo denunciato migliaia, lui e tanta migliaia, altra sì. gente, migliaia, circa 30-40 mila, se non ricordo 30-40 male. 30-40 mila, ma dove? Sì, assolutamente. In varie procure d'Italia. Comunque, ma 30-40 mila firme dove? Le avete rubate da internet? Non esistono queste firme. Ma le rubate da internet? Ma vabbè, firme allora... sono denunce personali. Sono 30.000 persone che hanno fatto delle denunce personali. Ma non 30-40 mila. 30-40 mila. Vabbè, sì. Poi? Comunque, poi, cos'è che mi stavi chiedendo? No, al di là di questo? Stavamo chiedendo niente, stavamo cercando di trovare un farmaco adatto. Al di là delle denunce? Al di là delle denunce, guarda che ci sono delle affermazioni denunce. Che io comunque condivido molto più gravi, che ha fatto per esempio Salvatore Borsellino su Napolitano. Cioè? Cioè, lui dice che Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia. Questo capito, ha detto Parenzo? Salvatore Borsellino. No, ecco. Io guarda, sono tranquillo, ho capito una io cosa. Io l'ho intervistato varie volte, io l'ho Salvatore intervistato Borsellino varie ha detto volte, questo, sì. Ed è una cosa che dalla quale è difficile allontanarsi. È ecco, difficile. Perché, beh, certo, perché in effetti dubbio. Basta vedere quello che cioè, succede. Praticamente è un mafioso, praticamente è connivente con la mafia, tu dici. No, ma perché cerchi di mettermi in bocca cose che non ma è questo il garante. La trattativa sarà connivente con la mafia allora, secondo te? No, io non ho detto questo. Tu cerchi in tutti i modi di mettere nei guai le persone che intervisti. Ma che nei guai? Ma più nei guai di come sei? Ma a me non funziona. Salvatore Borsellino ha dichiarato. Vabbè, ma tu ti attacchi a Borsellino, lo condividi, ma ti attacchi a Borsellino, dai, su. Perché? Cosa avresti da dire su Borsellino? Scusa. No, ti attacchi a Borsellino nel senso che prendi spunto da quelle parole che condividi. Ma lasciamo perdere questo. Ma hai da dire qualcosa anche su Benigni, mi sembra, o no? Anche. Benigni contro Mandarà. Se ma Totò e Cleopatra. Allora, ma dai, Benigni è un grande artista che ma secondo, me è, ma secondo me è uno spreco della natura, perché voglio dire un Benigni che riesce a raggiungere 10 milioni di italiani e che vada a leggere i comandamenti, che me li posso far leggere anche dal chierichetto di turno o dal parroco della mia parrocchia. Prego, voglio dire, quando una volta lui parlava di temi importanti, cioè io preferivo il Benigni di 20 anni fa. Vabbè, ma quello vabbè, Mandarà versus Benigni. Svenduto a Gubitosi che pretende protegge una persona che ha commesso un reato e parlo di Monica Maggioni perché lei ancora questo ha imparato la legge Anselmi la conosci la legge Anselmi del 92? Vabbè, ma scusa Salvo invece di delirare ma non ho capito che ma quale delirare? Che male ti ha fatto Benigni? Non ho capito che male ti ha fatto Benigni Benigni, Benigni, nel momento in cui va su Rai 1 della televisione di Stato a parlare di stupidaggini, cioè attenzione, no, non voglio essere frainteso, i comandamenti sono delle cose importantissime. Ci rendiamo conto, scusami, di una cosa, scusa. Tu l'hai mandato a fare in culo, se non sbaglio. Io l'ho mandato, sì, affettuosamente, l'ho mandato a fare in culo per dire: Roberto, occupati delle cose importanti, Roberto, che succedono nel paese. Non credo, ma perché, perché, si manda, perché Benigni, dopo quel successo straordinario di due giornate, no, come quella, sì, certo, torna a casa, apre internet e dice: legge, oh, che manderà, oh, via, fanculo, ma attaccato manderà, oh, chi certo le manderà, ma chi le manderà, ma di, perché ognuno non sta al suo posto, Bonino, mamma mia, manderà all'attacco piedi, Benigni, di Roberto Benigni, 10 milioni di persone lo hanno visto, l'attacco di manderà, ma Benigni, che significa? Ma scusami, ma non è che perché mamma 10 mia, milioni di pecoroni l'hanno visto, aiuto, vuol dire che ha senso quello che lui fa, mamma, potrebbe parlare di cose molto più, tu pensa, se avessi io 10 milioni di persone che mi guardano, se pensa, avessi, bravissimo, quanti occhi potrei aprire, bravissimo, capisci? Hai centrato il punto, invece sono solo 10.000, solo 10.000 purtroppo. Ma chi è, chi sono? Uno a uno voglio vedere questi 10.000. 10.000 persone con problemi. Mi devo lasciare, mi devo lasciare. Ciao. Ti faccio vedere i tabulati. Ciao. Salvo 5.0. Vabbè, sì, ciao. Ormai è tutto degradato ormai. Ma c'hai dei problemi, Cruciani? A Crociata hai dei problemi seri, te. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. È ora di far rivivere la rubrica Italia, paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Caro Parenzo, ritorna. Questa rubrica, certo, non vuole suonare offensiva, ma qualche volta l'Italia si dimostra veramente un paese di merda, soprattutto negli sprechi. Leggo da Italia Oggi, è stato inventato anche il contatore di piccioni, cioè il comune di Piacenza, come nei film di Totò, vuole essere certo del numero dei suoi pennuti, i piccioni. Capito? Cioè spende il comune di Piacenza 30.000 euro, che sono certamente pochi nel mare degli sprechi italiani, mafia capitale, quello che volete, per contare i piccioni. Cioè vogliono contare i piccioni, che sicuramente sono un problema per quello che sai riguarda. Sai che a Venezia anni fa accadde la stessa cosa? Dai, su il contatore di piccioni. No, e se non ricordo male, il nostro amico il professor Cacciari, forse anche un audio c'è da qualche parte. Il professor Cacciari fece una battaglia incredibile perché i piccioni lordavano Venezia e ingaggiò una battaglia. No, ma quello d'accordo, ma questi hanno dato dei soldi per contare i piccioni. Questo forse contare i piccioni. Questo non credo. La scena ricorda il meraviglioso film di Totò, Noi abbiamo l'appalto nazionale per la fornitura dei piccioni su tutte le piazze d'Italia. Capirà. Ci sono i ragazzini con la fionda, qualche malintenzionato che se ne frega sempre qualcuno. Sai, il piccione piace. Io, ragazza, che dovrei fare? Contarli. Una specie di censimento quotidiano. Di modo che alla fine del mese i comuni ci rimborsano l'importo dei piccioni mancanti. Beh, stupendo. È profondamente attuale, direi. Sì, moltissimo, bellissimo. Questa è la merda d'Italia! Questo è. Grillo vuole Napolitano sostanzialmente al gabbio, diciamo la verità. Non lo dice, lo dico io alla romana. Vuole Grillo al gabbio. Con la chitarra in mano. Questa Italia che dà queste immagini di sé è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Perché ne sono. Napolitano non si dovrebbe dimettere, dovrebbe costituirsi. Sì, però ci saranno insomma le elezioni per il Presidente della Repubblica. Ma il Presidente, bisogna che ci sia un Presidente che non agevoli e non firmi qualsiasi cosa, mi firma e non mi spezzo. Insomma, ha firmato qualsiasi cosa, dalla legge Fornero allo scudo fiscale. E l'amo viola la domenica in TV. Messaggio per Parenzo. Negli anni 70 la Walt Disney ha pubblicato un fumetto e adesso le associazioni rom dovrebbero citare in tribunale la Walt Disney. Topolino e gli zingari. Questo titolo, Topolino e gli zingari. In questo fumetto Minnie veniva rapita da una banda di gitani, da una banda di zingari, e poi veniva successivamente liberata, veniva rapita perché gli zingari scoprono che la ragazza erediterà il patrimonio dello zio, eh. Poi Topolino, con l'aiuto di Orazio, Clarabella e Pluto, la salvano. E adesso che cosa bisogna fare? Citare in tribunale Walt Disney? Che cosa dici? Storicamente razzista, lo sanno tutti. Ah, Parenzo, due punti, Walt Disney razzista. Allora, in questo caso mi sento un po' come Mandarà versus Benigni, però scherzi a parte, se tu lo verifichi, chi ci ascolta lo verifica, avrà la gentilezza di verificare questa cosa che vi dico. Walt Disney era razzista, antisemita, questo è sicuro. Vabbè, mandiamo il TG3, dai, forza, mandiamo il TG3 dopo questa cosa. Parenzo, due punti, Walt Disney razzista. Ti prego, verificalo. Lo verifico. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano, da governo sforzo coraggioso per correggere mali antichi. Non c'erano alternative alla missione del Premier. Confermata la fine imminente del mandato presidenziale. Renzi, nessun problema per l'elezione del capo dello Stato. Il piano Juncker, dice dal Consiglio europeo, un passo importante, va nella giusta direzione. Grillo alla stampa estera, dobbiamo uscire dall'euro. Attacco al PD e al Quirinale, ma sulla successione al Colle apre a un candidato fuori dalla politica. Italia contraria a nuove sanzioni alla Russia, Putin all'attacco, l'Occidente vuole incatenare l'orso russo. L'Avana in festa per la fine annunciata dell'embargo, ma i senatori repubblicani promettono battaglia contro le aperture di Obama e il ruolo del Vaticano. Una folla incontenibile a Santa Croce d'Amerina per i funerali del piccolo Loris, le dure parole del vescovo, come si può uccidere un bambino? È morta una delle più grandi protagoniste del cinema italiano, una carriera importante e una vita riservata, Virna Lisi, un artista indimenticabile. Detto oggi, tra l'altro, tra le altre cose, che il Partito Democratico è il referente di Carminati e Buzzi, eh? Partito Democratico referente di Carminati e Buzzi. E mi piace quando è così battagliero, Grillo. È tornato a battagliare, basta. È tornato basta, a fare delle battute che basta, lo saranno la sua rovina. Basta Movimento 5 Stelle, vedi, che sta lì a fare trattative con i partiti. Vedi, basta Fuoriusciti. Vedi. Battaglia su tutti, vedi, i fronti, battaglia, lotta dura, senza, vedi, paura. Vedi, caro Cruciani. La politica non è soltanto un grande spettacolo di cabaret. E il signor Grillo, con queste battute, rischia, ecco il mio editoriale di oggi, la sua morte politica. Eccolo qua, benissimo. Fammi sentire Salvatore da Milano. Dai, Salvatore da Milano. Salvatore da Milano. Vai, Salvatore, che non è Mandarà. Salvatore, vai. Sonia Milan scrive: pare Sonia incredibile. Milan, chi è la sorella di Milan? Chi è? Non credo, non lo so. Allora? Dice: pare incredibile, chiocciola giù Cruciani, ma David Parenzo ha ragione su Walt Disney. Vabbè, mica no, la Bibbia, no? Salvatore, Sonia Milano. Milan ha scritto. Vabbè, sarà la sorella di Milan. Vai. Salvatore, parla, ciao, cazzo. Cruciani, ciao. Ascolta, io vorrei sapere una cosa. Perché ce l'hai tanto con i napoletani? Ma non ce l'ho ancora, insisti con i napoletani, ancora, no, e poi devo dirti una cosa, hai aperto, un amico, allora, mio me l'ha suggerito, ascolta, oggi, ma perché nella fiction Gomorra non c'è mai la polizia? Io sono 25 anni che sto a Milano, hai capito? Da 3-4-5 anni che me ne vado finalmente in pensione, me ne vado a Napoli, forse avete capito male. Se vuoi venire ti porto con te, ti porto con me a vedere Napoli, chi è e com'è Napoli. Ma chi ha detto il contrario? Ma non ho capito perché vi siete mangiati vivi, vi siete mangiati vivi Mastelloni, perché in un grandissimo atto la politica è sempre la politica. No, Mastelloni, non Mastella, Mastelloni. Mastelloni, su due i broglioni degli altri. Ma che c'entra? Quello fa l'attore. Tutto uguale, tutto uguale. Vabbè, ma che vuoi, Salvatore? Non ho capito che vuoi. Non ho capito cosa vuoi. no, che mettete anche queste cose a ammazzarci ancora. Ammazzarci, Napoli non è come dite voi. Ma casomai ti ammazzi da solo, io non ammazzo nessuno. No, no, no, vi ammazzate, ammazzate a tutti così, cioè non lo so. Ma così a chi? Non così cosa? Ai napoletani, sono due razze di napoletani, ci sono i napoletani, la monnezza e tutti il resto dietro. Io faccio parte dei napoletani, lavoro che avevo 8 anni, hai capito? E quando sento la mia città, il mio sangue, perché non quello di ieri sera, no, non parlo di quello di ieri sera, dobbiamo morire, quello se sarà qualche cafone di chissà. È un napoletano, il napoletano, te lo dico, il napoletano originale ce l'ha nel sangue Napoli, com'è? Si offende, quello che sente solo di anche quando fanno la trasmissione delle partite, tutte si parla fuori del Napoli, anche se è al primo posto, vabbè, siamo abituati a queste cose, però ci sono tre razze di napoletani, ricordate, sono tre razze di napoletani, questo tutta l'Italia, tutto il mondo lo deve sapere. Ciao Gianluca Milano, vai. Che devi fare il comizio? Due ore, sì. Che lo so, vai Gianluca. Eccoli qua i miei amici difensori dello status quo. No, non si sente niente, però prendi il telefono bene, maledetto, dai. Arrivo. Ma no, sei in viva voce, cazzo, ma che stai al circo, dai. Eccomi qua, ragazzi, come va, amici difensori dello status quo? Sì, vabbè, dai, ecco, status comincia quo, con le cazzate, sì. Dai, forza. Come state? Dai, forza. Una domanda, come mai questa deriva estrema nei confronti del Movimento 5 Stelle? Ma quale deriva estrema di cosa? Rispetto a che? È una smontatura sistematica ogni giorno che avete. Ma non c'è nessuna smontatura, anzi a me piace quando uno fa la battaglia, quando se Grillo tornasse a battagliare, se fosse meno depresso, anche il Movimento 5 Stelle sarebbe meno depresso, ne parlavo stamattina col professore Be. È così. Hai una persona che mi sembra... Solo che ha annoiato, non è più battagliere, ha annoiato. Ma vicino alla persona che la pensa come la pensa. No, che vuoi tu? Si è reso conto che è impossibile cambiare le cose in Italia. Chi? Grillo? Grillo si è reso conto che è impossibile. Certo, e anche soprattutto i parlamentari, che poi sono quelli che fanno il lavoro grosso, che non hanno nessun risalto mediatico. Devi andare a vedere la loro televisione. La colpa è dei giornalisti che non danno spazio, ma non dire cazzate, dai. Assolutamente sì. Voi difendete questo status quo. Noi difendiamo lo status quo. Chiedo, non mi interessa niente questa cosa. Status quo, non so manco che cos'è lo status quo. Chiedo scusa. Corriere della Sera di qualche tempo fa. Dimmi. Razzista, misogino, fanatico, il lato oscuro di Walt Disney. Ma che c'entra? Perché c'è la borsa. E quell'altro borsa ascoltatore, no. Mi avete deriso su questo? Monellacci. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving way. Parlando con Carminati, dice: il problema è che non ci stiamo più noi. È una cosa incredibile. Grillo, il movimento, è riuscito a distruggere il PD. Che cosa vuol dire? Se il PD si distruggono automaticamente anche loro, perché il referente loro in questa città e nel resto anche dell'Italia è un partito che si chiama Partito Democratico. Però ti prego, fammi risentire anche Abate. Ma questo è il Grillo che ci vuole? Adesso non do un giudizio. Questo è il Grillo che ci vuole. Ma con qualche ritardo? No, ma anche per il suo movimento. Per il suo movimento, quello è il Grillo che ci vuole. È quello che dice che il PD era il referente, perché è vero in parte, perché si appoggiavano sull'amministrazione, anche sull'amministrazione Marino. D'altra parte, Rosi Bindi, e parlo di Rosi Bindi, oggi che cosa ha detto? Ieri, oggi, quando era? Che le infiltrazioni mafiose erano pure dall'amministrazione del PD di Marino. Non è che ha detto un'altra cosa, l'ha detto Rosi Bindi, non è che l'ha detto Gasparri, l'ha detto Rosi Bindi. Scusami, tu hai sempre detto no, questi sono estranei, eccetera. Estranei di che? Le infiltrazioni ci sono pure nella giunta Marino. No, lui, io non ho detto estranei, è chiaro che si sono dimessi degli assessori, non è che ho detto e che allora, sono estranei. E allora, appunto, lo dice pure Rosi Se Bindi, altro, dai. Quelli che si sono dimessi sicuramente. Però non senti si... la Biancofiore, mettiti un po' a ridere, Incontrando Prodi, Renzi ci ha minacciato. La signora Biancofiore, le minacce. Minacce di che? Di cosa? Abbiamo voluto dare un segnale, Renzi, quando ha incontrato Prodi a Palazzo Chigi. A me non è piaciuto per nulla, è stato un brutto segnale di grande minaccia e questo mi sembra un modo di fare che non... Sì, secondo me no, questo è un modo di fare che francamente non dovrebbe appartenere ad un ragazzo di 40 anni. Incontrare Prodi, una minaccia. Per Salvini l'ipotesi di Padoan, che si è fatta, non ci sarà mai questa cosa qua, di Padoan, il ministro dell'economia, come Presidente della Repubblica, è una cosa pazzesca perché lo considera una sorta di pregiudicato, porta a porta. Padoan è stato fondo monetario internazionale, consulente della Commissione europea, della Banca centrale europea, non scherziamo, è stato uno di quelli che ha regalato le chiavi di casa degli italiani a Bruxelles. La fedina penale di un pregiudicato. Sì, è stata... sì, assolutamente. Cioè ha fatto l'elenco degli incarichi di Padoan, signor Salvini. E Vespa gli ha detto, avete certo, sentito? Sì, sì. Sembra che lei ha fatto questo sì, certo, un pregiudicato, cioè tutti incarichi prestigiosi internazionali, secondo Salvini sono degli incarichi da pregiudicato, una cosa pazzesca. Allora, Radio Club 91 di Napoli, trasmissione Radioattivi, hanno sentito ieri Mastelloni, ci hanno mandato gentilmente uno stralcio audio che ieri abbiamo mandato in parte, in cui Mastelloni fa marcia indietro. Questo accade spesso, per carità, Leopoldo Mastelloni, attore, eccetera, eccetera, attore teatrale, napoletano d'origine, residente a Roma, aveva sparato a zero contro Napoli, intervenuto a Radio Club 91, cosa ha fatto? Si è un po' pentito, ho fatto un'analisi superficialissima, poi dice che su provinciale ha detto la verità, ho detto le mie impressioni, ho casa e residenza a Napoli, insomma un po' ha calato le braghe come al solito, vabbè, sentiamo un po' Mastelloni, dai. Un'analisi superficialissima di certe evidenze, sì, che basta aprire qualche senta, ma Pasquale Squitieri, Pasquale, come stai? Bene, ti seguo sempre. Avvicina un po' la bocca al coso, non si sente una mazza. Come stai, maestro? Sono un po' moralista, però va bene tutto. Allora, Pasquale, mai sentito questa roba di Mastelloni, sì? No. No, aspetta un attimo, che mo te richiamiamo, che non si sente una mazza, dai. Gianluca, allora, Gianluca, vai. Quello che ti volevo dire appunto è che voi state disintegrando praticamente ogni puntata, specialmente Parenzo, che tratta il movimento che è stato il primo partito in Italia a livello di votazione, e mi sembra chiaro, mi sembra che i dati parlino abbastanza chiaro, lo state smontando come se fosse una fedina. Ma non lo stiamo smontando, tra l'altro io dico che ha ragione su questa roba qua, sulla roba del PD referente di Buzzi e Carminati. Ragazzi, ha ragione. Ovviamente le persone, come avete detto bene voi ieri. Ma io questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo, il fatto che butta via le persone, figurati. Quindi sono praticamente, hanno aderito alla parte del sistema. Ma Renzo, rispondi. Ma Marcio, io vorrei capire Parenzo. Che c'entra il sistema? Io vorrei capire Parenzo, no? Come intende cambiare le cose? Con questo terzo governo imposto dai mercati finanziari della BCE? Con Renzi? C'è tanta confusione in quella sua testa, lo dico certo, con grandissimo, con grandissimo rispetto. Quando Grillo... Grillo ha commesso. Le famiglie non guadagnano tutti 200, 300, 400 mila euro l'anno. Esattamente per questo. Esattamente per questo. Infatti, se l'Italia, fosse fallita, le famiglie che guadagnano 10.000, 11.000 euro. Ma rispondi sul punto. Ha torto Grillo. Ma ha torto Marcio, te l'ho spiegato anche prima. Quando dice che il PD è referente di Buzzi e Carminati, ha torto. Ha torto Marcio, perché non si. Io rifiuto le generalizzazioni. Scusami, per me è la questione. incoerenza è questa. Come mi incavolo quando voi parla, voi tutti, Cruciani e altri che chiamano, parlano di rom in quanto categoria, in quanto ladri, mi adiro. Ora mi sto adirando nel merito perché dice, perché fa l'equazione PD uguale Carminati. È una bestialità. Ma che c'entra? Ma non c'è, è un attacco politico. Bene, ma lo sai benissimo come funziona la politica. Sì. Non è la spiegazione del dettaglio. Quando uno fa un comizio, quando uno fa una cosa e io dice non ho che mai il PD ritenuto, ad esempio, che le persone che, gli, che gli, tutta la classe dirigente di Forza Italia fosse, non ho mai ritenuto, mai troverai una mia dichiarazione su, o una mia dichiarazione. Esatto, no, una mia invettiva, una mia, quello chiamala come vuoi, su questo. Mai ho fatto generalizzazioni di questo tipo, mai. Davide, provincia di Ravenna, vai. Ciao, ho chiamato perché ho fatto un comitato etico nuovo che si chiama Un politico buono e un politico morto. Ma chi sei, ecco. Vichingo? Sì, sono io. Vichingo, dai, anche Vichingo. Ma nell'ordine, mandarà nell'ordine, attenzione, perché la serata. No, ma Vichingo ha chiamato. Attenzione, attenzione. Che c'è, Vichingo? Facciamo ordine. Tu pensi di essere anche il nipote del Duce? Il Vichingo. Ma cosa c'entra questo? Dai, su! Per questo comitato, Ma quale comitato? Allora, per introdurre, scusa, fermi tutti un secondo, chiedo questo solo, poi Vichingo parla pure, ma per introdurre, giusto per farci capire a chi ci ascolta, per rinfrescare la memoria, chiedo alla regia di seguirmi solo un secondo. Per presentare questo Vichingo, che ora chiama, chiederei gentilmente di introdurlo con la colonna sonora che lo ha caratterizzato qualche estate fa, perché così tutto quel che dice viene un attimo incorniciato, diciamo, in questo contesto. Prego, regia. Ma questo signore che tra poco parlerà e va benissimo, per carità, caravanserraglio, ma come si chiama quell'altro, Mandalama, Valà e altri esseri che chiamano, però esseri, Vichingo, esseri. Ora il signor Vichingo sta per introdurre un tema molto serio, però vi prego, contestualizziamo il signor Vichingo, è possibile? È possibile un attimo dalla regia avere... Cuccare, non cuccare, diremmo universale. Hai capito? Cuccare, non cuccare, non universale. Attenti, questo è il Vichingo. Il Vichingo che parla di politica, poi va benissimo. Ecco. Qualche estate muove fa bene il suo bacino, il signor Vichingo. Qualche estate, tu cuccare, sei razzista comunque, sei razzista. Però introduco per far capire chi è il Vichingo. Vichingo, allora che vuoi dire? Dai, su, vai, risolviamo sta cosa, Vichi, dai. No, mi fa piacere questa cosa qui perché così mi dà la possibilità di dirti una no, cosa. No, però veloce, dai, ti prego. Ho parlato alla potente lobby gay che tu spesso nomini, che non ho parlato proprio qui. Ma non si sente, però ragazzi, non si sente. Non si sente, cazzo! Davide, allora, forza! Ti avevo pagato della potente lobby gay, però adesso hai capito. Vabbè, dimmi, funziona. Che cosa vuoi stasera, Vichingo? No, perché hai chiamato? Perché la gente, quando sta per morire un politico, o per malattia, o per vecchiaio, perché ha fatto un incidente, è contenta nei bar, è contenta al ristorante, è contenta in strada, in piazza. Allora ho deciso di fare questo comitato etico, perché l'etica in questo paese comitato sta etico, sì, perché cosa? Sta cambiando. A voi giornalisti che fate parte del sistema, state attenti, vi consiglio. Come state attenti? Ci sta minacciando. Anche alla vostra morte. Chiaramente per un incidente, per vecchiaia, per malattia, però sposta un po' la bocca dal microfono, mettila un po' più distante. Cioè, non ho capito, stai augurando, ci stai augurando la morte praticamente. No, non ho detto questo. Ascoltami, Cruciani. Tu sei bravo a girare come tutti i giornalisti. Siete bravi a nascondere le notizie o a trasformarle. Io sto dicendo che la gente, quando un politico sta per morire o di malattia, o di vecchiaia, o che ha avuto un incidente, la gente è contenta. Ma la gente come te è contenta, la gente come te. Il popolo, così non dobbiamo più pagare pensioni d'oro, non dobbiamo più pagare stipendi d'oro a questi incapaci, a questi ladri, a questa mafia. Perché la vera mafia è nella politica. È chiaro che voi non potete dirlo perché siete pagati, prendete i soldi da loro, dal sistema, vi fa guadagnare, vi fa riempire la pancia. Ma noi, nella classe italiana, eccola, Parenza, eccola. No, la migliore risposta non è l'ambulanza in questo caso. Aspetta, eccola. È cuccare, non cuccare. Cuccare, non cuccare. No, eccola, arriva, l'ambulanza arriva. Dai. Adesso ti ho dato una notizia nuova. Cruciani, questa è una notizia nuova. Come ti parlai della famosa lobby gay? Tu mi hai notizia. Non si parla, non mi metto te. Eccola, arriva con calma. Arriva. Intanto tu sai che tanta gente, quando un politico sta per morire, applaude, è felice, brinda e si augura la morte, di malattia, di vecchiaia, del politico infame, traditore del popolo italiano. Then you take it away. fermo, vai Cristian, ragazzi, sì, cercate, no, di mettermi, no, bene, no, le linee telefoniche, sennò divento una belva stasera, una belva, una belva. Cristian, vai. Sì, no, scusa, stiamo ancora vedendo per questo pazzo arrestato, fate qualcosa perché non è possibile. Il vichingo, non lo so cos'è. Comunque io avevo chiamato, pronto? Sì, vai, dimmi, dimmi, avevo forza. Avevo chiamato a proposito del problema, insomma, di oggi, Presidente. Solo che volevo dire una cosa, è tre giorni che si parla di questa storia di Napoli. Cioè, io veramente penso che sia una cazzata mostruosa. Cioè, uno dice una cosa, Napoli, io sono siciliano, sono palermitano, sì, cioè, mi sembrano delle cazzate così. Cioè, è questo è folklore, basta di non riscatena questo inferno, ma di che, perché? Lo sappiamo tutti, ce lo sanno pure, non lo so, comunque. Vabbè. Cosa lo sanno tutti? Vabbè, perché che a Napoli, insomma, con Napoli, Palermo, queste sono città particolari, sono, ma questa fa parte della storia, cioè ci sono le persone brave, le persone cattive, ci sono i mafiosi, ci sono i camorristi, ci sono i ragazzi in Colombia, in Brasile, in Messico, in Venezuela, a Baltimora ci sono quartieri che a Napoli sembra di stare in un convento, voglio dire, quindi mi sembrano tutte storie. Vabbè, poi vai avanti, vai. Vabbè, il discorso del presidente, cioè vabbè, finalmente ha deciso, viva Dio, che se ne andrà, Napolitano. Cioè, sei contento? Io sono contento, cioè per me Napolitano è stato il peggior presidente della storia d'Italia, cioè voglio dire... Ma Parenzo, perché sbuffi? Uno non può dire che secondo lui il presidente è stato il peggior presidente, non ho capito, io questa cosa rifiuto, non è che ci può essere la santificazione di Napolitano. Io non faccio la santificazione. Vuoi sentire, scusa, il mio pensiero, io non faccio, scusami. La Costituzione dice una cosa, no, io ai tempi di Cossiga, vabbè, lì erano altri tempi, c'erano altri... Vabbè, allora? Che ormai il presidente della Repubblica non funge secondo il mandato. Questo lo sappiamo tutti. Napolitano è stato proprio il massimo, cioè nel senso che è stato nove anni, insomma, che ha fatto quello che ha deciso praticamente insieme ai grandi poteri di finanza, eccetera, eccetera, la politica italiana di questi ultimi anni. E questo non potrei dire che non è vero, perché lui è coinvolto in tantissime cose, anche delle cose che dice il giorno, anche quest'ultima cosa. Vabbè, ho capito benissimo. Secondo te ha violato la Costituzione, è andato al di là dei suoi poteri. Fermi tutti, eccetera, fermi, eccetera, tutti, fermi tutti, fermi che tutti. Che succede? Che succede? Messaggio per le forze dell'ordine: il 20 dicembre alle ore 16, oddio, all'auditorium. Fermi tutti, 20 dicembre. 2014, ore 16, Auditorium Centro Congressi, via Corridoni 16, Milano. Apprendo che alcune sigle appartenenti alla cosiddetta destra, ultradestra, sì, si ritroveranno a Milano, in via all'Auditorium Centro Congressi, per un convegno dal titolo Europa, una grande e libera. All'incontro parteciperanno le sigle, Davide, più forza, razziste d'Europa. Dai. Alba Dorata, Forza Nuova. Prego intervenire se c'è un magistrato. Prego il questore di bloccare, cioè, l'incontro, ormai, se possibile. Tu ormai se non fai appello a un magistrato, a un poliziotto, alle forze dell'ordine. Interverranno Alba, cioè, Dorata. Non sei contento? Tu no, non mi interessa. Ma tu sai di cosa stiamo parlando? Ma si riuniscono. Il partito nazista Alba Dorata, il partito dell'ultradestra della Svezia, hai fatto diventare il partito del potere bianco. Ridicola, Gran Bretagna. Una cosa quasi importante, una roba ridicola, una riunione di quattro gatti, una cosa quasi importante. Forza Nuova. Quello che io faccio non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Caro amico, te lo dico da amico, e fatti i cazzi tuoi. Fammi cantare, manda al questor, e via Corridoni. Sei a Milano sabato 20 dicembre li trovi tutti lì, tutta l'estrema destra d'Europa, manda al questor. Tra l'altro la sala è della provincia e qualcuno gliel'ha data. manda ma lo portate via da Roma, ma lo portate via da Roma questo imbecille che ha questa fissazione dei fascisti a Milano. Ma chi no, se no, ne frega di quello che succede sabato quando a Milano? Poi ne parliamo seriamente quando allora, vuoi la canzone... visto che la sala è della sì. provincia di Milano, quindi è un caso vabbè, politico d'accordo, vabbè permetti. Ormai tu sei fissato, vabbè. No no non è un caso politico, ma che Alba Dorata parli in una sala per me, no, per della me hanno provincia diritto di parlare. Milano anche i fascisti hanno diritto e di parlare partito di, il cosiddetto partito di Black Power bianco inglese sì, tutti se non te li fili è meglio, se non te li fili è meglio. Se ti piace un mondo così mi piace un mondo dove tutti possono parlare, mondo dire da me a Adi Nolfi, se ti piace un mondo così, beh a me mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così fa cagare. Ma c'è un legame tra Antonio Razzi e Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista? Partito Comunista. No. Buonasera. No, le due Z, caro Rizzo, no, c'è qualcos'altro in comune, caro Rizzo, la Corea del Nord. C'è in comune la Corea del Nord. Anche Razzi è un amante della Corea del Nord. E anche lei. Io non sono un amante della Corea del Nord, noi pratichiamo una cosa che si chiama internazionalismo proletario. So che come per che, voi cosa praticate? Che cosa praticate? So che per voi è difficile. L'internazionalismo proletario. È difficile che per me si chiama così. Ma dai Rizzo, su Marco. Tutti i paesi aggrediti dall'imperialismo ricevono la nostra solidarietà. Io non faccio altro. E dunque la Corea del Nord riceve la tua solidarietà perché è aggredita dall'imperialismo. Quando la Siria è attaccata dall'imperialismo, anche la Siria lo riceve. Questo non vuol dire che noi sposiamo. Vabbè, ma sono comunisti però. Se non ormai è finita Cuba, è rimasta solo la Corea del Nord. Nel senso che non sposiamo il regime siriano, il regime libico, però diamo la solidarietà se un paese indipendente. Però in Corea del Nord, in fin dei conti, non è che si campa troppo male rispetto ad altri posti, che dici? Beh, dipende, se uno pensa a certi stati dell'Africa, dell'Asia, certamente si campa meglio. Il problema, infatti, bisogna fare i contesti. Si parla dell'Italia e della Corea del Nord, è chiaro che si sta meglio in Italia. Scusami un attimo, caro Marco. Siamo comunisti, ma non siamo comunisti. Già per me oggi essere americano, già, amico mio, esatto, è finita. È tutto finito ormai, caro Marco. È finito, è finito. Beh, Parenzo tutto. Che te lo suggerisce. No, ma Parenzo me lo suggerisce. Parenzo, no, io sono filoamericano, come sai. Quindi... I cubani oggi hanno vinto una battaglia. Ma che vinto? Pure tu con questa America ha vinto. Tre patrioti che erano andati a spiegare che c'erano i terroristi a Miami e che erano stati incarcerati assieme ad altri due, erano in cinque. Allora? Hanno peccato l'ergastolo, oggi sono stati liberati. E credo anche viceversa. Una buona però. Battaglia. Sì, finta. però. Detto questo, hanno anche riconosciuto che l'embargo in 50 anni non è servito e che hanno sbagliato. Come si può? Non ci sono riusciti con i soldati, forse adesso ci proveranno con internet, ci proveranno. Come ci proveranno? Che sia benedetto internet, i McDonald's, la prostituzione d'alto bordo. Ti piace così tanto il McDonald's? Ma Cuba sarà in mano. Quando lo vedo a Piazza di Spagna non mi piace. Cuba diventerà un altro stato americano. Caro Rizzo. Speriamo che non torni come prima, quando c'era Battista. No? Beh, come Battista, no? Ma droghe e puttane. Beh, sicuramente ci sarà la Cuba di Fidel Castro. Sicuramente ci saranno droghe e puttane. Sicuramente già c'è adesso. Le puttane ci sono adesso. Diciamo che danno i soldi allo Stato adesso, è un po' diverso. Un po' di soldi li danno anche allo Stato. Invece, vedo che non sei stato in Honduras o in Guatemala. Vabbè, ma per paragonare come si sta a Cuba. Perché comunque, sei un po' affranto, Marco. In quei paesi lì, Marco, sei un po' affranto o no? No, per nulla. No, sei affranto. Io peraltro ho conosciuto uno di questi arrestati. No, ma lascia perdere gli arrestati. Non sei un po' abbattuto dal fatto che cade? Alla fine c'è questo accordo. Invece di combattere fino alla fine, di restare autonomi, c'è l'accordo con gli americani. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità. Sai, noi siamo di Confindustria, i padroni, dobbiamo guadagnare un po' di quattrini. Io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la zanzara. Di matti, Spopola su internet, Parenzo. Internet che secondo Rizzo sarà la prossima invasione degli Stati Uniti a Cuba. Io spero che sia così, spero che ci sia la grande invasione di internet a Cuba, perché Cuba sia ridotta come l'Italia, cioè l'Occidente, con i suoi difetti, con i suoi vantaggi, eccetera. Caro Rizzo, si arrenda, Cuba diventerà come l'Italia. Non mi arrendo qua, perché dovrei arrendermi per Cuba, scusa. No, ma sì, ma non ci sarà più il Partito Comunista come un tempo, è finito, morto, sarà una minoranza che, come la sua, che alzerà la bandiera finché qualcuno gli arda. Quel Partito Comunista lì ha dato dignità a un popolo, lo ha... Ma c'è la dittatura, cambiato, c'è la dittatura, non si vota a Cuba, non si vota, caro Rizzo. In Italia si vota. No, vota anche in Italia effettivamente non si vota. si vota, guarda, si vota una guarda, Rizzo, la democrazia. Rizzo, voglio dirti questo, bene, Rizzo. No, la cosa è molto semplice. Un mio amico che sta seguendo dal taxi. Parenzo, aspettavo la Jacopo Pellegrini, che è sul taxi in questo momento. Pellegrini è un grande intellettuale che scrive anche sul Foglio, un mio amico. Che è sul, sono in taxi a Roma. Sto ascoltando la Zanzara, perché il tassista me lo ha imposto. Certo, questo è il punto, no? Bravo, cioè lui è salito, bravo. Pellegrini, Jacopo, è salito, dice devo andare, dice però lei le disturba, veramente le disturba se io ascolto solo la Zanzara. Cioè, no, anzi, ci sono dei miei amici, quindi è salito. Però dal taxi mi scrive, chiedete a Rizzo. Ma perché uno deve dire la disturbo se ascolto? Beh, un tassista mette la radio e se ne fotte del cliente. Beh, no, io ad esempio, tassisti, salgo... dovete fottervene, sbattetevene, no, accendete la radio a palla. Ma no, ma che ve ne esempio... fotte del cliente? Ma se io come? I tassisti hanno l'autonomia. Mia operaia ancora nel cuore. Ma infatti devono essere autonomi. Devono essere autonomi. No, guarda che sono tutti un sacco sono di destra, altro appunto, che autonomia operaia. Appunto, comunque, appunto. Vabbè, poi la questione è perché Rizzo non ama la libertà. Questo ecco, è il punto di fondo. Questo è buono. Cioè, però, non è smaginarci molto attorno. Perché lei non ama la libertà? Proprio perché amo la libertà, provo ad esempio a dire, visto che abbiamo parlato. Rizzo, per quanto lei è libero, a Cuba, se lei fosse vissuto a Cuba negli ultimi anni, cioè, sarebbe finito in galera più volte, lei lo sa, più volte in galera, carcerato. Proviamo a fare un gioco diverso. Proviamo a pensare che l'Italia fosse aggredita per 50 anni dall'intero, ma ancora con questa aggressione, che ci fosse stata uno sbarco, vabbè, che allora... avessero avvelenato i nostri raccolti, sì, che ci avessero fatto l'embargo, vabbè, che ci avessero fatto 600 attentati ai nostri presidenti della Repubblica, quali sarebbero i diritti umani nel nostro paese? Sai che quando c'erano le brigate rosse, cioè, la dittatura la Malfa, è giustificata? Attenzione, la Malfa, quando ci fu il sequestro Moro con le brigate rosse, Moro, no, voleva lo stato d'assedio e la pena di morte. Cioè, allora, segnalo, no, però stai dicendo che la dittatura, la dittatura è i livelli di libertà sono legati, dunque anche giustificata dall'aggressione americana. Caspita. Vabbè, ma dai, vuoi mettere le brigate rosse con gli Stati Uniti? Insomma, comunque adesso è tutto finito, mi sembra, Rizzo. Mi sembra che tutto finito. Dai, su, c'è un diavolo. Se fosse così finito, no? Non avrebbero dovuto sospendere l'embargo, no? Se fosse così finito. È tutto se fosse finito. Così finito, non avrebbero che, dovuto Rizzo, fare. Rizzo, ti informo che questa cosa qui conviene soprattutto agli Stati Uniti. Cioè, il togliere, perché è una nuova conquista, Cuba diventerà. Nuovi investimenti, bellissimi, grandissimi Stupendo. Alberghi, casinò. Sono accorti solo adesso. Bordelli organizzati, sì, bene. Come mai questo sarà? Conviene adesso. Agli Stati Uniti, anche ai cubani, ovviamente, che bordelli guadagneranno organizzati più soldi. Bene. Conviene a tutti, allora, evidentemente. Insomma, sì, non è così semplice. Scusi, Rizzo, quante volte è stato a Cuba lei? Due volte in vita mia. È mai stato una da ragazzo nell'83, prima di andare in Nicaragua a fare dei campi di lavoro. Campi di lavoro in come Nicaragua? Campi di lavoro? Certo, c'era stata la rivoluzione. Mitra in mano, magari, ha sparato? Qualche volta? No, abbiamo costruito una scuola nel centro di Managua, in un posto che si chiamava Barrio La Reina. Ma se avesse avuto la possibilità, lei avrebbe sparato contro uno della dittatura del Nicaragua? Guardi, contro un militare, che ne so? Se io fossi stato in Italia durante la Resistenza l'avrei fatto. Perché... Vabbè, la Resistenza... Beh, sì, questo è giusto, questo parliamo sì. Del nostro paese. Noi siamo italiani. E quindi ci rapportiamo alla nostra storia. Su questo ha ragione. Vabbè, io non ho capito. Perché devo dire, se uno fa. Certo, se fossi stato con Fidel Castro avrei sparato a Battista. Mi pare che il regime di Battista sia. Signor Battista, c'era un po' di droga, un po' di mignotte. È un po' di corruzione. Anche perché adesso che c'è? Adesso che c'è stato negli ultimi anni? Droga, corruzione, puttane. Dai. No. Forse droga meno, droga di Stato. Droga di Stato. Alla capitale italiana. Ecco, come cioè in che senso? Cuba. Cioè, l'Italia, bah, ecco, vediamo. Però proviamo solo a dire una cosa sulla democrazia. Non avrebbe anche senso che chi produce la ricchezza, cioè chi la fa davvero, quindi anche voi che fate un lavoro giornalistico, dunque? possiate decidere cosa produrre, dove produrre, quanto produrre, per chi produrre. Questa è la vera democrazia. Vabbè, non ho capito niente. Di votare qualcuno che è stato indicato. Vabbè, fosse per lei, fosse per lei sarebbe tutto collettivo, dai, sarebbe tutto collettivo, lei nazionalizzerebbe tutto. Sarebbe un grande protagonismo, molto lo Stato, dai, ma è una cosa orribile. Ma lo Stato fatto dai cittadini. Ma che significa? Non significa nulla. Lei ancora come Soviet. Ma lei vuole ancora i Soviet? Ma si rende conto o no? Rizzo vuole ancora i Soviet. Voi cosa volete? Buzzi Carminati? Beh, vabbè, sono purtroppo non è quella l'alternativa. Capitalismo è corruzione. Capitalismo è corruzione. Io preferisco la corruzione ai Soviet. Preferisco la corruzione ai Soviet. Scusi, Saddam non era corrotto? Io lo dico chiaramente. Saddam non era corrotto? Preferisco la corruzione ai Soviet. I regimi comunisti non sono corrotti? I regimi ex comunisti? Dice cosa vuole. Io preferisco un po' di corruzione ai Soviet, sì, è vero. Anche perché nei Soviet c'è. Io dico che il capitalismo buono non c'è. No, ma io dico di più. Tra l'altro, secondo me. Oppure si becca un'altra. No, ma ho capito, ma io vado oltre e ti dico, caro Marco Rizzo. Nei giorni in cui si sancisce la definitiva sconfitta del comunismo cubano di fronte all'Occidente capitalista, perché di questo si tratta, anche se tu è apprezzato. Vabbè, comunque ti dico potrebbe essere, sarà così. Ma non è, mi pare affrettato. Comunque ti dico questo, che anche la dittatura è corruzione, anzi la dittatura è la più grande corruzione. Di solito i più grandi corruttori sono i capi delle dittature. Noi viviamo noi la dittatura della grande borghesia e delle banche. Noi non viviamo. Caro Rizzo, volevo capire se nella tua seconda visita a Cuba sei mai andato a Mignotte? No, non sono mai andato a Mignotte nella mia vita. E come mai? Uno libertario come te, uno... No? No, ma dico, può darsi che a un certo punto debba farlo, non... Ma no, debba! Detto, come si può dire, non ho avuto... Adesso poi ho la pressione alta, quindi sono anche un poco, come si può dire, decaduto, però non ho mai avuto... No, perché siccome tu piaci molto come donna, comunista, ecco. Pelato, piaci molto alle donne, secondo me, Beh, devo dire, i ricordi non li vedo così male, ecco, dei buoni ricordi. No, ma le donne ancora, secondo me, ti... No, non sei più... ma ti ho detto che piglio le pasticche per la pressione, quindi sono un po' più così, un po' più deboluccio rispetto sei fuori forma, diciamo, no? Fuori forma. Diciamo, però ai tempi d'oro, quando là stavi in Parlamento a battagliare come un paio. Ai tempi d'oro, ma anche prima del Parlamento. Rimorchiali. Me la sono cavata bene. Te la sei cavata, dai, su. Le compagne hanno regalato grandi gioie. Beh, questo anche non solo le compagne, ecco, insomma, ero molto pluralista da questo punto di vista. A presto! Ma stiamo parlando di Cuba, adesso mi viene Cuba, così a sfruttare. Scusa, Marco, abbi pazienza, per me Cuba ha un solo riferimento, cioè, questo è chiaro. No, vabbè, c'è per anche me Cuba è un posto... Fidel. Ma vabbè, tu sei ossessionato dal sesso. Bravo, su questo ha ragione. Ah, ma scusa, ma c'era caro, mi ricordano dalla regia che all'ultimo congresso affollatissimo del Partito Comunista di cui sei segretario, c'era una ragazza spagnola molto molto bella, molto bella. Anche parlare, peraltro, era carina, sì. Molto carina, spagnola mi sembra, no? Sì, del Partito Comunista dei Popoli di Spagna. Come un partito comunista dei popoli di Spagna. Ma quando Salvini parla della Padania non lo pigliate per il culo? Come no? Come no? La Padania ha sempre preso per il culo. La Padania abbiamo sempre. Ci sono delle lingue, c'è il basco. Il basco non è lo spagnolo. Abbiamo sempre preso per il culo. Abbiamo sempre preso per il culo Salvini anche sulla Padania. Ma scherzo con voi, ma devo fare un po' di polemica, sennò sembra che poi domani andiamo a cena assieme. Ma a cena assieme ci possiamo pure andare. Sai, i comunisti ormai sono innocui. Sono innocui. Io tante volte sono andato a cena con Rizzo. Vorrei fare ancora paura. Ma sono innocui. Mi dispiace, ma sono innocui. Cioè, l'unico pericoloso è Kim Jong-un. Pare Kim Jong-un. No, Jong-un. C'ha la bomba. C'ha la bomba. L'unico pericoloso è rimasto questo. In Italia i comunisti è roba da folklore ormai. Siamo al folklore puro. I comunisti, diciamo. Che ma Renzi, per te, che cos'è Renzi? Un pericoloso reazionario? Uno venduto a Marchionne? Renzi è uno che guida il treno costruito dalle banche e dal potere centrale europeo. Se ci fosse Grillo sarebbe obbligato a guidarlo allo stesso modo. Oggi ai cittadini italiani è consentito di colorare il treno e di scegliere il manovratore, ma la direzione del treno, la velocità del treno viene decisa dalla troica. Questo può darsi. Meglio la troica di Cuba, meglio la troica di Cuba, tranne il mare e le Mignotte. Andatelo a chiedere a chi perde il lavoro, se è d'accordo, sai. Comunque, l'ultimo comunista sta per lasciare il Quirinale, questo non c'è dubbio. È stato comunista, forse comunista un po' dentro. Forse non lo è mai stato. Ma no, come no, quello è stato comunista. A sentire quello che dicono, ci sono insomma, fino a 20 anni fa c'era un italiano su tre, forse votavano comunista, non era. Comunque, però tu e Razzi avete in comune, tu e Razzi, ma abbiamo in comune le due Z. No, avete in comune anche la Corea del Nord, e non mi dire che in Italia ancora quanti comunisti ci sono, molto più conosciuto di me. Quanti comunisti ci sono in Italia oggi, secondo te? Secondo me comunisti dal punto di vista della dottrina. No, i comunisti, Sì, qualche decina di migliaia ci sono. Ah, vabbè, ma decine di migliaia, sì, sono più gli ascoltatori della Zanzara che i comunisti, dai. Caspita, ma se io avessi tutti gli ascoltatori della Zanzara come rivoluzionari, farei la rivoluzione, scusa. Un partito. Senta, un partito. Io non farei la rivoluzione. Voi avete qualche milione dobbiamo, di persone. Ragazzi, dobbiamo chiudere, eh? Dobbiamo chiudere questa telefonata. Parenzo, che devi dire? Qualcos'altro? No, no, volevo sapere se... Lo saluto. Ciao, saluto. Caro Marco. Io sono stato tante volte a cena con Rizzo, sono stato, e sono contento. A Bruxelles siamo stati. Vabbè, ragazzi, ma chi se ne frega adesso? No, dai, ma volevo sapere se si fa... cosa? Per il comunismo. Perché anche lui non fa delle foto come quello di Salvini, dico, per rilanciare, come dire, anche per attirare l'attenzione. Ma non c'è niente da rilanciare, il comunismo è finito, morto! Come si può dire? La farebbe mai una foto come quella di Salvini, nudo? Beh, il comunismo è una cosa seria, mica ma il comunismo può essere paragonato alla mia pelata. Io sono un nano seduto su spalle di gigante. Ma lei è glabro? No, io mi rado con la bic, col bic. No, ma dico, è depilato? Ma dove depilato? In testa mi faccio la rasata. No, in testa, vabbè, no, ma sul corpo è depilato, ma no? Sì, ma sono un uomo, io mica sono... Cosa? Perché i depilati no, che sono? Frocetti? Ma che ne so, io insomma, io uso la Nivea da quando ero piccolo come crema, stop, non è che ho le creme per gli occhi, le creme per i piedi, sono una crema sola, sono uno che è nato a Borgo Vittoria nella Torino Operaia. Ah vabbè, perché quelli che si depilano sono un po' frocetti, diciamo ma la verità. Ma che ne so, io non mi depilo. Ciao, ciao, ciao. Sveglia, saluti ciao, a tutti. Ciao. Prendo atto che ormai è tutto finito. Tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente. Lorenzo, cambiamo in scaletta adesso, che succede? Adesso, cari amici, dovete mettere, se siete in macchina, state tornando a casa e avete i vostri bambini, i minori in macchina con voi, dovrete prendere delle cuffie, prendete delle cuffie, mettetegli un bel film di Walt Disney ad altissimo volume o un cartone animato, oppure anche la canzone del vichingo, se volete. No, la canzone del vichingo con i bambini, cioè, quella ci può stare, no, innocua, bambini, no. È innocua come il vichingo, no. Una bella canzoncina, oppure la, fermatevi la, sul la, ciglio la, della strada. La conosci questa canzone? No, quella è la signora Rivelli, non c'entra niente. Basta non mettere fermatevi sul ciglio della strada, sì. Appoggiate un attimo i bambini fuori senza esporli al traffico che passa per essere travolti, metteteli sul ciglio della strada, tornate un attimo in macchina, anche se piove, anche se c'è una bufera, lasciate i figli due secondi lì, tornate in macchina, accendete la macchina, lasciate i figli fuori, se protestano lasciateli protestare, non è male se piangono ogni tanto i bambini, va benissimo. E sentite questa cosa qui che riguarda un signore che si chiama Paolo Barnard. Paolo Barnard è un economista, presunto tale, un economista è famoso per le sue sfuriate. Stiglitz è un economista. Stiglitz, sì, vabbè, d'accordo. È famoso per le sue sfuriate. Krugman è un economista. Sì, vabbè, d'accordo. Boeri è un economista. Vabbè, d'accordo. Ma basta, no, d'accordo, niente. Non è... Vabbè, io lo chiamo economista per semplificare. Un economista / giornalista, famoso per essere stato tanto. Montanelli era un giornalista. Vabbè, oddio, che Paolo Mieli è un giornalista. Non. Ti prego. Economista / giornalista, famoso per le sue sfuriate contro banche. Anche contro euro, contro a tutte le sue teorie sul debito pubblico, è stato tanti anni ospite da Paragone, poi l'hanno allontanato, cosa eccetera. Cosa ha fatto questo signore? L'altro giorno, già ha avuto dei problemi con le donne, con le sue considerazioni sul genere femminile, l'altro giorno ha tirato fuori il suo pisello online, si è fatto una fotografia e l'ha messa su Facebook. Ma perché? Non lo so, abbiamo provato a chiedere, sì, no. Ha spiegato lui, lunghissimo, a me mi rompe i coglioni leggere le spiegazioni sul perché uno tira fuori un sì, c'è una spiegazione, ma non c'è da spiegare. Potete andarla a leggere, adesso non mi va di raccontarvela. Comunque non l'abbiamo chiamato. Sentite. Pronto? Barnard. Di chi è? Sono Papa Parenzo. Parenzo chi? La Zanzara. Cosa vuoi? Ma ti sembra il caso di tirarti fuori il pene così, metterlo su Facebook? Ma che roba è? Beh, l'ho spiegato, Parenzo, dai, non c'è tempo. Ma non c'è da spiegare, uno che va in televisione, che vuole fare l'economista, che tira fuori il membro. dai. Vabbè, senti, non niente da dirti. Ma come niente da dirti? Ma è agghiacciante proprio quello che hai fatto. Vabbè, ok. Grazie. Ma non ti vergogni? No, voglio capire, ma non ti vergogni di questa roba? Non hai capito un cazzo, devi leggere la spiegazione. Ciao, ma non c'è, scusami, sono molto calmo, scusami, davvero. Ma non c'è spiegazione. Ma che cazzo vuoi da me? Ma l'ho scritto la spiegazione. Vai, cioè, quando uno tira fuori la sciabola così, poi sciabola. Sì, sciaboletta. Buon lavoro, ciao. Voglio capire questo, scusami. Così si è consumata la prima telefonata. Sentite la seconda. Paolo? Chi è? Ancora tu? No, sono Giuseppe, ciao. Senti, no, ma ha detto Parenzo che gli hai buttato il telefono in faccia. Sì, che cazzo volete da me? Non ho capito. Ma no, ho capito, ma uno può tirare fuori l'uccello, scusami. Ma cazzo te ne frega? Ma no, ma hai detto pure delle stupidaggini su di me, scusa. Hai detto che ti abbiamo cercato 5 volte, ma non è vero, una volta ti abbiamo cercato. No, guarda, io ho 5 telefonate a volta. Qui non vabbè, certo, risposto. Non rispondi, certo. Ma vabbè, una... ho capito, comunque tu sei una merda perché con la storia dei bambini greci ti ho veramente... Bambini greci? Quali bambini greci? Guarda, senti, sei una merda. Io ti ho sfidato a mettermi in onda. Sfidato? Ma ho capito, ma sputtanare dove? Perché cosa? Merda, ma perché cosa? Di merda che selezioni una frase da una trasmissione senza mettere il discorso che stavo parlando di una strage di bambini greci. Ma quale strage di bambini greci? Che non esiste questa strage. Non esiste questa strage. Vabbè, okay, ma scusate, ma perché uno, a parte questo, il fatto che io non ti voglia mettere in onda o ti voglia mettere in onda, non c'entra nulla. Ma sei scappato via come un verme. Ma che è scappato puttane. Via? Ma che me ne frega a me di scappare via o non scappare via? Il problema è che uno non si può tirare fuori l'uccello online. Che significato ha questa cosa? Spiegami. L'ho spiegato in un pezzo. Ma spiegamelo. Non te lo spiego, non me ne frega un cazzo. Ma perché non me lo spieghi? Non ho capito, spiegamelo. Vatti a leggere quello che ho spiegato. Ma ho capito, ma che c'entra? Vattelo a leggere. Ma ho capito, ma è una cosa gravissima. Che cazzo te ne frega se sei gravissimo? Ma no, ma lo dico per te, perché io in qualche modo ti sono affezionato. Io no. Ma perché non sei affezionato a me? Io sono affezionato. Ma perché sei uno stronzo, sei un leccaculo. E quella storia dei bambini greci è stata un'infamata. Ma che infamata? L'hai detta, adesso ti tiro indietro. L'hai detta mi che... sei cioè... cagato addosso cioè... perché ti ho detto riprendimi nel programma che faccio vedere a tutti che ho messo la parte principale. Si stava parlando di ma una guarda che per me puoi essere... certificata dall'Anse, pezzo di merda. Vabbè, d'accordo. Hai tirato fuori solo la ma che c'entra questo? Ma che c'entra questo? Sei un gabinetto vabbè, di uomo. Sono un gabinetto di uomo, d'accordo. Mi spieghi perché... Vai fino a Napoli e le fighe te la danno in bianco e fanno bene. Ma a Napoli? Ma chi c'è mai andato io nella vita che non vado a Napoli? Cioè, se vado a Napoli corro pure qualche rischio. Scusa, abbi pazienza, ma mi spieghi questa cosa, veramente questa cosa? Perché secondo me hai oltrepassato un limite. Poi per carità va tutto bene per lo show, eccetera. Ma che significato ha questa cosa anche con le donne, no? Tirare fuori l'uccello online. Ho parlato di nuova restaurazione in un articolo, vattelo a leggere. Di nuova restaurazione? Sì, vatti a leggere. No, ma è interessante. Siamo a livello di nappi, cioè sei la nappi del. Ma che nappi? Vatti a leggere sul mio sito la spiegazione dell'uccello fuori la nuova restaurazione. Te lo vai a leggere. La nuova restaurazione. Dai, qualcuno dice che è pure finta quella foto, perché non è proprio così. Qualcuno dice, qualcuno, io no. Io non ci credo. No, vabbè, senti, io te l'ho già detto, secondo me ti devi suicidare. Mi devo suicidare, addirittura, suicidare. Secondo me ti devi suicidare, sì. Ma perché mi devo suicidare? Scusi, io sono tanto felice così, sono tanto tranquillo, felice così, perché sei tu probabilmente che hai dei problemi, io no. No, io i problemi sono pieno di problemi, ma tu sei una merda. Il tuo programma fa schifo, siete due teste di cazzo, siete di uno scolore infernale, vai. Calma, impiccati e trasmettilo. No, impiccato è difficile qui da smettere. Calma un cazzo, adesso mi sono rotto i coglioni alle ragazze, andate a leggere la spiegazione e vi saluto. Ciao. Non c'è nessuna spiegazione del pubblicare un pene, non c'è nessuna spiegazione, basta con stupidaggini, finito. Sì. Chiuso! Epoca delle stupidaggini è finita! No, uno pubblica un pene, non c'è nessuna spiegazione da fare! Finito! Chiuso! Claire! Sì, Barnard! Sì, no. Economia! Sì. Fine! O microcefalo, no? Ucciditi, ciao! Che è successo? Che? Microcefalo, ucciditi! Nina, Napoli! Nina? Nina? Tonio, Roma! Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, sì. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Io ieri da Vespa. Ma bisogna. Posso dire una cosa? Volete eliminare questa cosa di buonasera? Buonasera agli ascoltatori. Odio questa cosa. Eliminatela, vi prego, eliminatela. Eliminatela, sennò vi casso subito. Antonio, dimmi. Chiamavo perché ieri da Vespa ho visto una scena tristissima, che era la festa del Salento per Salvini. Ecco, sì, me lo ricordo, sì. No, io sono vivo a Roma tanti anni, però sono originario di quelle terre. Mi chiedo, ma come si fa ad essere dei leghisti nel Salento? Nel senso che per me si deve essere coglioni, ma coglioni doppi, nel senso perché, vabbè, l'aveva detto anche Berlusconi che votava a sinistra, perché primo perché la Lega ci aveva sempre additati come terroni e ora lo vai a votare. Secondo perché la Lega fa propaganda su questioni alla fine che non interessano il Sud. Cioè aveva più senso magari votare la Lega prima perché metteva al centro la questione meridionale, perché anche se presentava una soluzione assurda. Allora dico che come si fa? Non riesco a capire neanche come Salvini non si renda conto di... Ma quello vuole sfondare al Sud politicamente e sfrutta tutte le armi possibili. Ho capito, però le armi possibili quali sono? Dice che si è pentito di alcuni attacchi che ha fatto nei confronti del Sud, del Meridione. Cosa presenta il problema dei Rom? Non lo so, cosa presenta? No, il problema il problema interno dell'Europa che non funziona. A uno di Lecce, di Enna, di Crotone, di Matera, cosa interessa dei Rom dell'Europa? Che l'Europa ci ha salvati. Va bene, Andrea Torino. Andrea. Sì, pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io premetto che ho idee di destra e volevo chiedere a Parenzo perché gli dà così fastidio che il 20 di dicembre a Milano ci sia qualcuno che decide di parlare di Europa e di perché considero quelle sigle una adunata di ultradestra. Abbiamo capito, sì. Mi dispiace per voi che siete felici che la provincia che siete felici che una felice, sana della provincia che non ti crei malumori, ma il nessuno, fatto che la provincia di Milano ha dato una sede della provincia di coglioni che si radunano ovunque a una serie di sigle dell'ultradestra, tra cui Alba Dorata, Forza Nuova. Scusami. No, ma non posso allora, scusare, ma non importa. Solo bene quando scende la Camusso in piazza e tutte le bandiere rosse. Scusi, c'è una differenza tra la Camusso e Alba Dorata. Lei non la vede? Bandiere rosse allora, se fossero scese in piazza sigle dell'ultradestra, movimenti dell'ultrasinistra, avrei detto la stessa cosa. Se la sala della provincia fosse stata assegnata a un centro sociale, ad esempio, Cruciani non sarebbe qui a dire chi se ne frega. No, figuriamoci, chi se ne frega. Me ne frega niente. Se un centro sociale possiamo Askatasuna, ad esempio, no? Quelli di Torino, amici dei Nottave e quant'altro. Avessero avuto dalla provincia di Torino. Ma no, figuriamoci, ma possono fare... Avresti fatto l'inferno. Ma quando mai? Assolutamente no. Per unirsi e parlare, assolutamente per no. Per una sala data dalla provincia. Per unirsi e parlare, ma figuriamoci, ma assolutamente. Alba Dorata, infatti c'è una differenza fondamentale perché io considero Alba Dorata e tutti i movimenti che se vuoi ti cito. Abbiamo già capito. Nina da Napoli. Nina. Avanti. Pronto? Dimmi, cara. Ciao, caro. Senti, Giuseppe, ma tu a Napoli ci sei venuto mai? Sì, sono venuto qualche volta, certo, assolutamente. Ma la conosco superficialmente, devo dire la verità. Brava. Ma perché ce l'hai tanto con Napoli? Ancora insisti con questa storia. Nessuno ce l'ha con Napoli. Non me ne frega niente a me di Napoli e di Catanzaro, di Milano, eccetera. No, non è vero. Raccontiamo delle cose e raccogliamo opinioni di persone, punto e basta. Poi, se vuoi che ti dica la mia, certamente c'è un tasso di illegalità dal punto di vista della microcriminalità superiore rispetto ad altri posti. Ma è normale, questo è certificato da tutte le indagini possibili immaginabili sulla qualità della vita. Sulla qualità della vita. Solo questo. Basta, punto. Ma chi detto che deve dire, ma qui non siamo, ma, qui, ma questa non è la RAI che dobbiamo fare il riassunto di quello che succede a Napoli. Ma se permetti, noi ci notiamo un pavoglione e rispondi, intervieni e rispondi, cosa vuoi che ti dica? Stai sempre a parlare male di tutti. Ma nessuno, a parte che è stato Mastelloni a parlare male, io non c'entro una mazza, è chiaro? Quell'altro sera di Parenzo, ma lui l'ha detto con angoscia, per amore. Secondo me sì. L'ultimo stronzo, scusa. Come l'ultimo stronzo? Che vuol dire? Buonasera, grazie Parenzo. Volevo dirle questo, vuol dire cara. L'ultimo stronzo. Fermi tutti, aspetta, ferma lì. Va bene. Ferma lì. Non siete seri per niente. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone e ripeto, lo dico con amore. That's kept me hanging around and getting living. con noi, non un tendone da baraccone ovviamente, caro Parenzo, ma una persona che ha mandato a quel paese il nuovo editore italiano che lavora in Albania. Sapete che sul canale 33 c'è una nuova televisione che si chiama Agon Chen, un imprenditore italiano imparentato con l'ex re della monnezza romana Cerroni. Lui si chiama Becchetti. Ebbene, aveva scelto come direttore delle news il mitologico Antonio Caprarica, che però dopo pochi giorni, poche settimane, se l'è svignata. Adesso io ho ridotto, ho semplificato come al solito. Antonio, buonasera, come stai? Dov'è? Antonio, beh, questa sera va così, ragazzi. Quando inizia una telefonata che non si prende la linea, non c'è un cazzo da fare. Poi continua tutto così. No, ma è bello che ricarichissimo della presentazione. Voglio vedere se riesci a rifare la carica come prima. Nina, allora, che dicevi, Nina? Dai. No, ti volevo fare capire una cosa. Napoli è una città difficile. Io sono andata più volte da Napoli, perché a Napoli è difficile campare, è proprio difficile. Ma quello che voleva dire Mastelloni era quello. Tu in questo modo non aiuti minimamente, perché giusto. Ma io non devo aiutare nessuno, me ne fotto di aiutare Napoli, Roma. Per il cazzo, però, scusa tanto, perché non è che tu parli di Bari, parli di Palermo, parli di Roma. Se qualcuno mi offre l'occasione di parlare di Bari. Capisci? Ma Napoli è una città importante. Ma Napoli è una città importante. Oddio, che ce l'ho con Napoli. Non ce l'ho con Napoli. Basta, Nina. Questa è veramente. Mi hai scocciato con questa cosa. Mi hai scocciato. Ma tu quanto ci hai rotto le palle a noi? Scusami, ma che ho rotto le palle. Ma noi siamo vittime. Ma vittime di che? Siete vittime di voi stessi? Siete vittime. Ma questa è una città. Sei vittima di te stessa. Sei vittima di te stessa. Ognuno è vittima di se stesso. Non voglio raccontare, ragazzi, in questo momento, giusto? Quindi ti prego di credere che Napoli è una città impossibile da vivere, è chiaro? No. Per una persona per bene è una lotta inutile. Questo è vero. Ma è quello che voleva dire Mastelloni. Quello che dico io, momento, però io sto a Napoli, capisci? Allora? Cioè, quello che se ne va fanculo a Roma. Ma quello è andato a lavorare a Roma, è andato a lavorare. Come ha fatto Mastellone, come ha fatto Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo disse, fuito ven. Appunto. Non te ne puoi, no. Però tu non è che te ne vai a fanculo un'altra parte e poi perché Napoli è una chiave. No, sì, te ne vai, basta. E stai zitto, non parli più, non puoi parlare di Napoli. Dai, su. No, non puoi parlare mai di Napoli. Vabbè, ti abbraccio, dai, Nina, io alla fine ti voglio bene, capito? Ciao. Antonio? Sì. Eccoti. Eccoci qua, ciao, tu sei. Dov'eri finito? No, semplicemente ci aveva tradito la linea, non le sole cose che tradiscono di questi tempi. Ancora in Albania sei? O no? No, dove sei? In Italia o in Albania? No, non sono più in Albania, sono in Italia. Senti, ma io non ho capito, cosa è accaduto alla fine? Ma innanzitutto Grasso ha detto che sei uno snobbone che ha finalmente conosciuto come si lavora nella realtà. Non hai letta sta cosa? No, sì. Non l'ho letta, ma Grasso mi critica qualunque cosa io faccia. Se vado in Albania sono una stella cadente che cerca una nuova carriera. Sì, se me ne vado dall'Albania sono uno snobbone. Che cosa posso fare per evitare le critiche di Grasso? Ma andarmene all'altro mondo? Oppure forse ci può andare lui, non lo so. No, questo mondo è piccolo per tutti e due noi. No, ma Caprarica, ma uno come lei, col suo plomb inglese, con la sua. Cosa ho detto? Gliela sta tirando, scusi, amico mio. No, dice Parenzo che gliela stai tirando un po'. Ho detto solo che è un mondo troppo piccolo per tutti e due, ho voglia di andarmene. Se vuole accomodarsi lui, che devo fare? Senti, Antonio, adesso ti dico che cosa ha scritto. Ve lo ricordate? Quel corrispondente Rai da Londra e poi da Parigi, un po' snobbone che esibiva quelle cravatte e parlava soprattutto dei reali, è andato a Tirana e si è accorto che il giornalismo moderno è un po' diverso da quello dei corrispondenti Rai. Ha accettato, ma forse non si è accorto dove lavorava. Cioè, ha detto che in sostanza te ne sei andato perché prima lì a Londra eri un privilegiato. Ma non ho capito, Grasso non aveva scritto l'altro giorno che Agon Channel era Agonia Channel, che ci andavano tutti quelli che erano dei falliti in Italia. Adesso è diventata la TV del futuro. No, non scrive questo. Ma vi prego, non mi fate polemizzare con Grasso, non l'ho mai fatto in 40 anni di carriera, non lo voglio fare adesso. è totalmente indifferente. Vabbè, ma è un parere di un critico legittimo. Ma critico, ma se l'avessi io, diciamo, la rendita di posizione di cui gode Grasso, insomma, è il più autorevole. Colonna quotidiana per sparare a zero contro tutti i suoi amici e salvare regolarmente tutti i suoi amici, cioè è quello che in alcune zone d'Italia viene definita mentalità di un certo genere. Cioè, ma come? Mentalità mafiosa, dici tu? No, ma io sono uno sdobbone che sta sulle rive del Tamigi, abbiate pazienza. Non me te la sei presa, però. No, però te la sei presa, ma è giusto che uno se la possa prendere. Ma se uno dice che quello è uno sdobbone che sta là, servito e riverito, va in Albania e non si è adattato, uno poi si incazza, giustamente. No, però su questo ha detto che. Aspetta. Vorrei anche far sapere al signor Grasso, agli amici del signor Grasso, che io per andarmene dall'Albania ho dato un calcio a un tesoretto che molti di questi moralisti d'accatto farebbero miracoli per cercare di accaparrare. Quant'era sto tesoretto? No, il tesoretto non te lo dico, ma insomma era un tesoretto che mi avrebbe, come dire, consentito e assicurato una vecchiaia tranquilla. Addirittura, paga così bene sto becchetto. Siccome me viene prima non le mie cravatte ma il mio nome, e soprattutto viene prima il giudizio che do di me stesso e la mia integrità, io non mi sono mai venduto in tutta la mia vita e non vedevo ragione per farlo negli ultimi anni. Ma addirittura si era arrivati al punto che ti dovevi... No, ma non in questo caso, dico, non potevo non dire la verità, insomma, se io trovo una cosa, io sono malato di giornalismo, ho accettato un'offerta in cui mi dicono faremo un giornalismo nuovo, bellissimo, magnifico, eccetera, vado lì e vedo che invece devo fare un TG registrato, dico grazie tante e me ne vado, basta. Ma prima non lo sapevi, cioè, t'avano promesso Mario Monti prima. Secondo te se mi avesse detto che facevamo un giornale registrato che bisognava chiuderlo un'ora e mezzo prima di mandarlo in onda, io accettavo. Che ne so io? Non mi sembra così grave. Non lo so, voglio dire, o sono pazzo io e pazzo qualcun altro, no? Ma perché ti ha detto così? Non ho capito, spiegami. Secondo te, perché ti ha promesso non lo so, ma io non sono nella testa delle persone, che ne so. Io so che incontro un imprenditore e mi dice voglio fare una cosa di questo tipo, penso che lei, non ci conoscevamo, non ci eravamo mai incontrati, ho molta stima per lei, grazie, eccetera, penso che possa fare questa informazione nuova. Io sono contento, bene, proviamoci, vediamo. E dopodiché, insomma, ma qual era il difetto? I computer sono arrivati il 17 novembre, il 1 dicembre siamo partiti col telegiornale, altro che i lussi, insomma, quelli che parlano di lussi, insomma, devo dire che adesso comincio anche ad averne le palle un po' più. Oh, scusa, mi è scappata la parola. No, perché sta storia dei lussi della RAI adesso basta, perché insomma quella RAI, quelli che hanno lavorato per la RAI, RAI in cui lavoravo io, era gente che si faceva un mazzo così ed era regolarmente pagata come tutti quelli che lavorano. Poi se qualcun altro andava, io andavo nell'albergo a 4 stelle, gli altri non so dove. Vabbè, non si può dire, non si può dire. È il momento forse di cominciare a far volare qualche querela, perché basta. Però scusami Antonio, non si può dire che tu eri in una situazione privilegiata a Londra, cioè magari hai trovato. Non è la situazione privilegiata. No, rispetto all'Albania. Gli altri colleghi dei giornali che stanno a Londra sono privilegiati. Ma rispetto all'Albania dico, no, rispetto alla situazione dell'Albania è una situazione un po' più precaria. E questo ti dimostra che francamente non sono lo sdobbone di cui raccontano palle qualcuno, cioè sono uno che è capace di andare a lavorare in Albania, dove sono andato a lavorare, dove ho messo in piedi un giornale, dove mi sono fatto un mazzo con una capanna fino a finire in ospedale il 24 di novembre. E che hai fatto in ospedale? Come in ospedale? Perché ho avuto una crisi ipertensiva da superlavoro. Addirittura? Ma t'hanno assistito bene? Devo dire il nome della clinica a proposito dei lussi. Dimmelo. No, per piacere, dai. Che clinica è, Antò? Dai, dimmelo un attimo. Che clinica è? Si chiama? IGEA, clinica IGEA. Ma perché è una clinica? L'americano sarebbe IGEA. Ma perché è una clinica? Beh, famosa, ad Argon Channel. Ma non ci sono finito solo io, il giorno dopo c'è finito anche un altro autore. Cioè, diciamo che lavorare ad Argon Channel è piuttosto stressante. Ma come mai? Cioè, c'è proprio una disorganizzazione cronica, i container. Spiegami un po' questa cosa. Fammi qualche esempio concreto, così capiamo tutti. Io ho già raccontato. Raccontami a noi. Anche ai tuoi ascoltatori, credo che sappiano, che siano informati. Non sono informati, raccontiamo qualche episodio. L'organizzazione era molto carente, raccapricciante, era direi. Molto carente, diciamo, perché appunto salette di montaggio nei container. Il problema non sono le salette di montaggio nei container insonorizzati, per cui non puoi manco registrare un pezzo, perché entra il rumore della pioggia se piove. il problema è la totale mancanza di un'organizzazione di palinsesto. Il telegiornale che appunto tu puoi solamente registrare con un'ora e mezzo d'anticipo, io sono andato in onda l'11 dicembre alle ore 20, sono andato in onda dando l'annuncio della precettazione dei ferrovieri precettati, perché non eravamo, non avevamo la possibilità tecnica di cambiare il file, perché così funziona quel giornale, il file chiuso un'ora e un quarto prima è mandato a Roma, dopodiché non lo puoi più toccare, quindi o lo cancelli del tutto oppure, oppure semplicemente vai in onda con le notizie vecchie o sbagliate. Sono situazioni. Tutte poi altre cose, fai un po' il cronista, però, al di là delle, delle questioni tecniche. Il cronista è l'assenza, l'ho già anche questo l'ho raccontato, l'assenza? Non c'è una stampante. Io la mail con l'amministratore, l'amministratore di Agon Channel mi ha mandato una, dinanzi alle mie ennesime proteste, mi ha mandato finalmente una mail il giorno, credo il giorno stesso in cui sono partito, il giorno prima, dicendomi la, la settimana prossima avrai la stampante. Niente. Questo non lo so se è arrivata quando sono partito io, ma finché c'ero io non c'era la stampante, capito? Così come non c'erano uffici, c'è solamente un ammezzato sottotetto in cui si affollano e si mescolano. Il cibo? Persone. Il cibo? Il cibo che mai ci mangia. Non so del cibo, io non ho mai... guarda, lavorando dalle 8:30 alle 8:30 non avevo tempo di mangiare lì, però se vai in giro per Tirana a mangiare la sera ti assicuro che mangi dell'ottimo italiano. Ma scusa, spiegami una cosa, ma questo Becchetti alla fine come lo definisci? Un traditore, uno che ti ha tradito, uno che ti ha, siccome hai parlato di tradimenti. Io non l'ho accusato di nessun tradimento, forse è un signore che non capisco bene per quale ragione mi abbia ingaggiato. Ah, ecco. Cioè, veramente non lo capisco, perché, sai, voglio dire, forse ha una sua logica, forse anche lui pensa che essendo io uno sdobone londinese del Tamigi potevo portargli magari un po' di nome. No, tutto ma come sommato, finirà diciamo, questa per storia? Per fortuna la mia immagine, scusami, ma per fortuna il mio nome e la mia immagine per svariati milioni di italiani differiscono moltissimo da quella caricatura che ne fa il solito critico. Il solito grasso, non prendetela così, molto, è una critica. No, questo è vero, l'immagine degli italiani, questo bisogna dire, l'immagine degli italiani, il signor Cabrarica, la sua, no, non è che... E per fortuna questa credibilità non è scossa dai 12 lettori del signor Grasso. Però uno potrebbe dire, uno potrebbe dire... Non vi sfugga la citazione manzoniana. No, dei 12, no, non c'è sfuggito. Secondo me un po' sta rosicando, ma te l'ho detto, giustamente uno si incazza se uno gli fa una cosa di questo tipo chiamandolo uno sdobone che è andato lì e che se ne è un critico come ma qui non c'è critica, noi, qui è una cosa personale, no? Parenzo, il critico, ma il critico è uno che guarda le cose riferite, no, ma lo dice, io non l'ho mai incontrato, ma Anto, mi dica il signor, ti dico che ha criticato anche noi, anche me, cioè non me la prendo. Lui continua a dirmi che io a Londra ho fatto lo sdobone e mi sono concesso chissà quali lussi, questa è la volta che lo querelo. Ma no, minacciato di querelare tutti quelli che dicono che come direttore di Radio 1 fu un disastro assoluto. E lui giustamente si è arrabbiato e ha detto la prossima volta che lo dicono querelo. Allora la prossima volta che Grasso dice che io sono uno sdobone che è abituato ai lussi di Londra, io lo querelo. Scusa un attimo, ma secondo te ci capisce di televisione, signor Grasso? Non me ne frega niente. No, ma no, ma come, ci capisce o non ci capisce? Il giudizio di un critico, non me ne frega niente, non mi interessa. Come finisce Agon Channel? Come finisce? Male, secondo te? Ma che ne so, ragazzi. No, secondo te, ci hai vissuto. Oggi, voglio dire, io sono andato via perché non credo che il progetto di Agon Channel, così come viene realizzato, così è come è stato, come hanno cominciato a realizzarlo in questi giorni, in queste prime settimane, abbia, per quanto riguarda le news, abbia un futuro. Non si possono fare le news registrate e non si possono fare delle news decenti in 9 persone che devono coprire le news, gli approfondimenti e ma secondo me non gliene frega niente delle news, non gliene frega altro, fa intrattenimento, talk show, finalmente un mondo, cioè mi hai detto non gliene frega niente delle news, assolutamente nulla, te lo posso assicurare, non nulla, news fatte in quel modo antico probabilmente, ma infatti secondo me la cosa fondamentale di base è che della news non gliene frega niente, ed era inutile anche prenderti, secondo me, te lo dico con grande... E questo lo penso anch'io. anch'io, beh, era inutile prendermi, non capisco perché ci siamo procurati, così, lui perché... io tanti grattacapi, ecco. Ti abbraccio, ciao, presto, ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, che lotta che ha fatto, che sì, lotta, era incazzato nero troppo, dai, ma scusa, ma lascialo sfogare un attimo, no, sto povero uomo, ma voglio dirti, povero uomo voglio... in senso buono, dico, appunto, sì, voglio dirti, non è che uno se la prende così. Massimiliano da Milano, fammi sentire una cosa divertente alla fine della serata. Ma se ti criticano te la prendi, ma scusa, ma, ogni tanto tutto sì, il diritto al critico televisivo di scrivere. Massimiliano Milano, beh, quella era una cosa un po' personale, perché parlava ma delle, no, delle sì, lo stile, dei parlava vizi, di uno stile, no, non è vero. No, parlava di quello a Londra, le note spese della Rai all'epoca erano di un certo vabbè, tipo, no, le capito, note uno... spese vabbè, della comunque, Rai dai, dell'epoca, questo era il punto. Vai. Comunque. Ciao, Massimiliano, dimmi. Giuseppe. Dimmi, caro, dimmi. Ieri tu hai menzionato un argomento che al di là della politica, al di là della cronaca, a me è molto divertente, a me risulta molto divertente, tra l'altro mi trova anche coinvolto e partecipe, forse interessa anche te, magari. Trova coinvolto anche. Cioè, qual è? Scusa, non ho capito. Quello della pioggia dorata. Quello ah, della pioggia, la pioggia dorata. La pioggia dorata. Sì, quello della pioggia dorata. Beh, che mi vuoi dire sulla pioggia dorata? Scusa, alle 20:50. Ci sono ancora. La pioggia dorata non è come bere la pipì. Perché allora riceverla. Vabbè, però adesso scusa, abbi pazienza. Siamo alle 20:50. Ci sono una. Cioè, c'è anche un altro che vuole raccontare. Luigi, tu che cosa vorresti raccontare? No, per farti un esempio di come si conclude la sera da qui alla Zanzara. Luigi, tu invece cosa vuoi raccontare? Spiegami. Vorrei raccontare. E dottor Crociani, se sta zitto un attimo. No, no, ma veloce, velocemente, in 30 secondi. Che vuoi raccontare? Da un sacco di tempo che lei non parla più di tutte le categorie dei sessi. Cioè? Io sono un decasesso, aspettavo di essere. Beh, il decasesso! Il decasesso! E col decasesso concludiamo. Però, Luigi De Roma, non ti preoccupare, che tanto ti richiamerò. Tu sai benissimo che io. Parenzo, tu anche tu lo sai, vero? Lo richiamerò. Lo temo. Ciao. Lo temo. A domani 18:30. Avete finito? Avete finito? Avete finito? Avete finito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.